No, no, Andrea, aspetta un attimo, aspetta. Che fatto? Mi sono soffiato il naso un attimo. Adesso, madonna, aspetta. Lo sai come sono fatto, aspetta. Adesso posso? Vai, sono pronto. Stai registrando? Ma non mi fa ridere, è una canzone seria questa, Meglio perdere un amico, perdere se stessi. Meglio la guerra fredda o la guerra dei sessi. Se hai degli interessi su cui investi, vedi vanificati tutti i tuoi sforzi e non vorresti fra. Com'è che la gente vede solo ciò di cui è capace? Com'è che la gente crede solo in quello che gli piace? Com'è che la gente fa solo i comodi propri e quando lo scopri inventa mille cazzate e si para il culo in tutti i modi? Tu lo sai come mai consumiamo tutte le sere, passiamo giornate intere davanti al PC o alla tele. Beh, io non lo so, ma mi fa pena il fatto che è più popolare che alla lista da amici di Facebook, piena schiavi di mode. Alla mia età l'unica dote sembra corrispondere a saper guidare un mezzo a due ruote. Se rimugino su queste cose mi sento nervoso. I bambini crescono sì, ma gli adulti vanno a ritroso. Da qualche tempo mi sento fuori posto, ma io mi sento fuori posto. Lo so per certo di essere fuori posto, perché quello che penso non è mai corrisposto. Da qualche tempo mi sento fuori posto, ma io mi sento fuori posto. Lo so per certo di essere fuori posto, perché quello che penso non è mai corrisposto. Cerco di fare il duro, quello che si piega ma non si spezza. In realtà cerco solo un po' di sicurezza. A volte solo una parola può ferire, a volte basta uno sguardo a farti morire. A volte la gente non si rende conto di quanto fa male. A volte è troppo tardi, chiedere scusa non vale. Ognuno ha le sue stazioni, le sue ambizioni, ognuno ha le sue ragioni, le sue opinioni. È inutile fare paragoni. Vivo di un sogno, intenzione di perseguirlo. Il fatto che non lo capisci non presuppone che tu possa sminuirlo. Mi guardo intorno e mi accorgo di fare parte di un mondo di cui non mi sento affatto parte integrante. Un mondo in cui la giustizia come garante qualcuno che la ritiene una cosa insignificante. Un mondo in cui fa un lavoro che non vorresti e trovi lavoro in base a come ti vesti. Beh, da qualche tempo mi sento fuori posto, ma io mi sento fuori posto. Lo so per certo di essere fuori posto, perché quello che penso non è mai corrisposto. Da qualche tempo mi sento fuori posto, ma io mi sento fuori posto. Lo so per certo di essere fuori posto, perché quello che penso non è mai corrisposto. E più io provo a far parte di questo mondo, e più capisco di essere fuori posto, e più io provo a far parte di questo mondo, e più diventa chiaro che da qualche tempo mi sento fuori posto, ma io mi sento fuori posto. Lo so per certo di essere fuori posto, perché quello che penso non è mai corrisposto. Mi sento fuori posto, mi sento fuori posto, mi sento fuori posto, mi sento fuori posto.